non è il tuo corpo bello che mi fa restare, nemmeno il tuo castello che si affaccia al mare, neppure la lisarda che è del tuo papà. Non resto per i titoli di nobiltà, non resto certamente per la caccia alla volpe. Se fosse per i boss sarei partito altre volte, ma vuoi sapere perché resto occhi azzurri d'acqua chiara? Per la tua coda alla vaccinara.